prendendo sopra. Resto da solo perché so dire il vero. Non cerco il vostro appoggio, nessuno l'ha mai chiesto. Non cerco più risposte, nessuno le sa dare. Nessuno che mi cerca quando affogo in questo mare. Resto da solo perché so dire il vero. Non cerco il vostro appoggio, nessuno l'ha mai chiesto. Non cerco più risposte, nessuno le sa dare. Nessuno che mi cerca e sa provoca faccio male. Mi è capitato di partire male in questa vita. La mia fallita sopra i fogli ed ora sto macchina. Un passo indietro, un brutto esempio, questa notte prima. La guerra in testa senza tregua, manco fossi in Siria. Se non sei forte chiedi aiuto a chi ti ha già fottuto. E chi sa farle è pronto a tutto e prende ciò che ha avuto. Lo guardi in faccia dispiaciuto, fai pure in un sistema a fare appunto. E grazie al cazzo che sei muto. Se non sorrido è perché penso ascolta pieno. L'arroganza che c'ho dentro, il mio bastone di sostegno. Chiedo scusa a chi bestemmio, indegno non di pieno. Da chi prega un dio denaro ed è perciò che lo bestemmio. Vorrei strapparmi gli occhi, il cuore e poi le ciglia. Contagiarlo col mio virus, liberarlo a qualche stiglia. A volte ringhia, briglia sulla lingua questa massa. Senza cassa, senza branco, è la realtà che si assottiglia. Resto da solo, perché so dire il vero. Non cerco il vostro appoggio, nessuno l'ha mai chiesto. Non cerco più risposte, nessuno le sa dare. Nessuno che mi cerca quando affogo in questo mare. Resto da solo, perché so dire il vero. Non cerco il vostro appoggio, nessuno l'ha mai chiesto. Non cerco più risposte, nessuno le sa dare. Nessuno che mi cerca e sa provoca faccio male. Ti lascio il posto, scarivette e poi ti illumi. Non concludi e rubi e basta. Chi non apre gli occhi chiusi, indossi giacca e cravattino. Fiero del suo giro, io che scrivo a sangue biro. Il mio disprezzo poi lo rimo. Poi ti chiudi sul complesso, io lo faccio spesso. Chi è che crede al vostro specchio sa mentire ed io non mento. Alzi il mento e sputo il cuore mai contento. Ed ogni volta che ci provo accendo un lume a chi si è spento. Non guardi in faccia più nessuno, vivo e cotto. Mangio crudo e non mi scotto, resto a posto cane sciotto. Quante volte ho visto il fondo, credimi non mollo. Non sono il tipo che si arrende quando in tasca non c'ho soldi. Ogni volta che ne avevo forse è stato peggio, perché il meglio che stringevo è stato un pezzo di disprezzo. Dove cazzo siete adesso? Fate in fretta, non aspetto. Caro amico, tu sei il primo e non lo sai cos'è rispetto.